Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Oggi sono con Alessia Maccaferri, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di no profit, filantropia. Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri... Ho detto giusto? Hai detto benissimo. Scrive per Nova, insomma è la nostra voce tecnologica e non su tutto un mondo super interessante che è tra l'altro pochissimo conosciuto. Sei tutto il mondo, Luca, dell'innovazione sociale, perché anche nel sociale c'è molta molta innovazione. Infatti noi siamo partiti da questo punto cercando anche un po' di capire, insomma è Natale, cerchiamo di collegare i temi del settore del no profit con quello del dono, dell'economia del dono. Tra l'altro l'economia del dono è al centro di tutti i social network, insomma chi legge Nova 24 lo sa, ne parliamo tantissimo e anche giustamente ce lo diciamo da soli. Ecco, il tema però è quello di cercare di capire che cosa succede nel momento in cui qualcuno decide di donare. Noi sappiamo, perché la casella di posta elettronica è non piena di annunci, donate di qua, donate di là, date dei soldi, però sappiamo anche che gli italiani, mi dicevi Alessia, che danno dei soldi in beneficenza, quanti è che sono? Danno tanti, perché il 33% fa una donazione all'anno continuativa alla stessa associazione non profit. Quindi in effetti è un mondo che è molto attento a questo tema. Su tanti versanti, c'è il versante umanitario, pensiamo solo al versante ambientale, no? Questi sono i giorni di Copenaghen, quante associazioni ambientaliste ci sono che sostengono questo tipo di campagne. Gli italiani sono sempre più attenti, ma sono sempre più confusi, perché esatto, questo è il punto, Luca. E noi siamo partiti da questo punto per provare, insomma ci proviamo a fare un po' di chiarezza, andare a guardare quello che succede dietro, anche come evitare le truffe, come evitare insomma i falsi filantropi, come evitare... Sì, perché questo alla fine è tra virgolette un mercato, nel senso che è pieno di proposte, quindi come in un mercato tradizionale ci sono proposte commerciali, anche in questo caso ci sono delle proposte che arrivano da parte del mondo delle ONG, delle associazioni, degli istituti di ricerca, che chiedono aiuto, aiuto di volontari, ma soprattutto aiuto in termini economici. Quindi come scegliere? Esatto, insomma facciamo un po' l'identikit, passiamo ai raggi X, il buon samaritano, ma prima di farlo noi diamo il numero verde 824 0024, insomma se siete incappati in truffe, in cose poco chiare, oppure se volete anche delle indicazioni per capire come, da chi a chi affidare insomma dei soldi che dovrebbero andare per cause buone e giuste, provate a chiamarci oppure scriveteci al 349 238 6666, e siamo sugli SMS. Ma ora presentiamo il primo ospite, l'ingegnere Goffredo Modena, fondazione, presidente della fondazione Aiutare i Bambini. Abbiamo una brevissima scheda che presenta insomma chi è, che cosa ha fatto e che cosa farà. Da imprenditore di successo a filantropo a tempo pieno, l'ingegnere Goffredo Modena trascorre una vita nel mondo delle telecomunicazioni, prima in Telettra, oggi Alcatel, poi con un'azienda propria. A 59 anni, in un momento di crisi professionale, inizia a lavorare in una cooperativa sociale di Vedano Olona, in provincia di Varese, a contatto con persone che hanno varie forme di disagio sociale, malati di AIDS, carcerati. Questo incontro cambia la sua vita. Con una parte dei suoi risparmi, nel 2000, crea la fondazione Aiutare i Bambini, che oggi ha in corso 150 progetti, a vantaggio di 90.000 beneficiari. Insomma, da imprenditore a filantropo, l'ha scelto in un momento difficile. Oggi fare il filantropo non è un mestiere semplice. È un mestiere difficile, anche se è un mestiere che dà una grande gratificazione. Cioè, sicuramente fare qualcosa per gli altri, donare la propria vita. Ecco, ma la sentite la crisi? Cioè, sentite che la crisi sta succedendo? Sicuramente, cioè, noi abbiamo fatto un budget quest'anno nel quale pensiamo che sia un risultato positivo raggiungere lo stesso livello di raccolta fondi dell'altro anno. Speriamo magari con qualche punto percentuale in più dell'altro anno, ma sarà molto difficile perché la crisi economica si sente. Oltre alla crisi economica, bisogna tenere conto che c'è anche diffidenza, sospetti, ma dove andrà a finire la mia donazione? Verrà utilizzata effettivamente per aiutare i bambini? Poi non dobbiamo dimenticare l'indifferenza, cioè è vero che il 33% delle persone dona con continuità, ma c'è una percentuale molto alta di persone che dice: io ho fatto tanta fatica per guadagnarmi i soldi, chiaramente adesso li voglio utilizzare per i miei desideri di vita. Ecco, però mi sembra che la cultura del dono stia sempre più entrando nella cultura comune, mi spiego, non solo in termini di valore economico, ma anche in termini di valore culturale, no? Pensiamo a tutto il mondo dei volontari che è così attivo nelle realtà del non profit. Certamente, come diceva l'ingegnere, c'è un problema di fiducia e di credibilità, perché poi questo è il punto, è come scegliere e a chi affidarsi. Ecco, proprio su questo tema noi abbiamo invitato Maria Guidotti, che è presidente dell'Istituto Italiano della Donazione, che insomma ci darà un po' di indicazione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sentiamo anche per lei la scheda. Una vita tra sindacato e terzo settore. Nata ad Ascoli Piceno nel 1956, Maria Guidotti ha maturato una lunga esperienza sindacale nella CGIL. Per 7 anni è stata presidente dell'AUSER, l'associazione di volontariato che offre servizi agli anziani, e dal 2006 al 2008 è stata portavoce del Forum Permanente del Terzo Settore. Oggi è responsabile dell'Osservatorio Nazionale della Contrattazione Territoriale di CGIL ed è presidente dell'Istituto Italiano della Donazione. Insomma, cos'è che bisogna fare per... innanzitutto di che mondo stiamo parlando? Cioè è un mondo che, almeno per me che non ho le informazioni di Alessia, è un mondo abbastanza oscuro. Io mi avvicino sempre in maniera un po' cauta, forse sbaglio. È un mondo un po' scuro per la gran parte degli italiani, aveva ragione l'ingegner Modena, cioè in questo dicendolo, perché c'è una larga maggioranza che appunto è indifferente o non conosce o è sospettosa, eccetera. Mentre invece il tema della fiducia oggi è un tema centrale per il nostro paese, per la coesione sociale, e il dono svolge una funzione importante in questo. Il dono non solo in senso economico, come diceva la dottoressa Maccaferri, ma anche proprio come messa a disposizione di tempo, di competenze, eccetera, per la propria comunità. Quindi qui c'è un fatto proprio culturale sulla donazione. Fare una donazione è fare un investimento, non è fare un'elemosina. Ecco, questo sottolineiamo questo passaggio, perché poi di fatto viene spesso scambiato questo concetto. Almeno c'è anche chi pensa: io non devo essere chiamato, nella mia società non devo essere chiamato a fare dell'elemosina. Perché? Perché pago le tasse e mi aspetto che lo Stato sociale, magari non tutti la pensano così, insomma, lo Stato sociale provveda. In realtà non è così, mi sembra di capire. Non è così, e non solo, ma alle persone piace sempre di più essere coinvolti, nel senso che hanno voglia di capire dove i loro soldi vanno a finire, in che modo vengono usati, hanno voglia di vedere le facce dei bambini che si aiutano magari dall'altra parte del mondo, o hanno voglia di toccare con mano e entrare nella sede di un'associazione e fare delle domande, anche delle domande, come dire, che possono creare dell'imbarazzo, no? Quindi vedere i bilanci, chiedere. C'è un interesse in realtà da parte del donatore, che giustamente appunto non fa più solo l'elemosina, non vuole solo scaricarsi la coscienza, non è tanto lo scaricarsi la coscienza, ma è sentirsi parte di un progetto. Sì. Vorrei dire a questo proposito che è estremamente importante che le associazioni, le fondazioni prendano consapevolezza che è loro responsabilità informare i donatori. E non attendere che i donatori donino. Quindi le associazioni e le fondazioni debbono comunicare, essere disponibili a rispondere alle domande che vengono dai donatori o dai potenziali donatori, avere degli strumenti come il sito web, la newsletter, il bilancio, che è uno strumento molto importante per capire dove le risorse sono state raccolte e come sono state impiegate. Quindi tutti questi strumenti è l'associazione che deve predisporli e trasferirli. Però non è obbligata l'associazione, nel senso, no. Stiamo parlando di un atto volontaristico in questo, sì, caso. Cioè, però noi dobbiamo, anche proprio perché c'è questa diffidenza e questi a volte pregiudizi, comunicare tutte queste informazioni affinché il donatore si senta rassicurato, e questa è un'iniziativa dell'associazione. Infatti l'Istituto Italiano della Donazione ha promosso una una carta che impegna le associazioni al rispetto di alcune regole, no? Maria Guidotti, quali sono queste regole? Sì, sono esattamente questo il punto, cioè è vero che la responsabilità è dell'associazione, anche perché in questo modo si crea una cultura. Prima dicevo, è un investimento, sull'investimento ciascuno di noi pone un interesse, un'attenzione, lo segue, vede che cosa succede di questo. Ecco, allora anche per la donazione bisogna fare la stessa cosa. Intanto il progetto deve essere comprensibile alle persone, ecco, deve quindi essere chiaramente... Stiamo entrando a livello operativo, cioè io voglio sapere che cosa prima di aprire, cioè prima di dare i soldi, cos'è allora, che è giusto che uno sappia? Questo progetto a che cosa è finalizzato? Con chiarezza, questa mia donazione che cosa realizza concretamente? Quando finisce questo progetto? C'è una persona a cui io mi posso rivolgere per capire a che punto sta il progetto? Sì, è vero, anche perché questo non è banale, non è scontato il fatto che io so che certi soldi vanno per un villaggio in una zona disagiata del mondo, però poi non so, posso essere sicuro perché c'è scritto che vanno a quel villaggio, ma per quanto tempo? Cosa c'è ancora lì? Ecco, in quel caso lì come faccio ad avere? Devo chiamare, devo telefonare? Sì, certamente, questo è molto importante, appunto avere il referente del progetto, qualcuno a cui chiedere informazioni, che risponda, che sia quella persona, che non sia una persona qualsiasi. Nel bilancio dell'associazione devono essere distinti le risorse che vanno per l'associazione in generale da quelle che vengono effettivamente dedicate, ecco, questo al progetto. È un punto centrale, perché per esempio io questo non lo sapevo, cioè io mi aspettavo, pensavo che nel momento in cui verso 100 euro per adottare il lupo, adottare una balena o per quello che voglio, insomma, mi aspetto che 100 euro arrivino esattamente al mio obiettivo, alla balena, al bambino, alla famiglia, insomma. In realtà non è così. Non è così, Luca, perché teniamo presente che le associazioni hanno ovviamente tutta una serie di persone, hanno delle spese da sostenere, hanno dei dipendenti, è una struttura. Ora, il tema è capire che quota del budget viene destinata alle spese e quanto viene destinata realmente all'erogazione. Infatti io per esempio mi chiedo sempre, meglio donare a una struttura grande che magari ha molti dipendenti però è più efficiente, o magari una struttura invece piccola che è più flessibile però forse ha anche meno spese di struttura, no? Perché poi è anche sempre, ovviamente, essendo comunque un soggetto che ha delle entrate e delle uscite, deve fare i conti anche con questi aspetti gestionali che non sono secondari. Cioè, quindi fatemi capire, cioè, il rischio qual è? Il rischio è che la mia donazione poi di fatto va a pagare degli stipendi. Potrebbe, una parte potrebbe anche essere così, ma è abbastanza normale se siamo dentro dei rapporti, diciamo, sostenibili, ecco, che non sia la maggioranza delle risorse, perché ovviamente una struttura deve funzionare anche, ecco, per qual perseguire l'obiettivo. Qual è la percentuale? L'obiettivo. Cioè, quando io verso 100 euro, quanto deve andare alla struttura perché chiaramente si mantenga, perché chiaramente non si può aspettare che le persone lavorino gratis, e quanto invece all'oggetto del... Stabilire delle percentuali è un po' difficile perché dipende dalla natura del progetto, dal tipo di associazione eccetera, però per esempio se supera il 30% comincia a diventare qualcosa su cui riflettere, qualcosa su cui discutere, insomma, ecco, per dare un'indicazione generale, che non può valere per tutti, ma quella cifra, un tetto in cui un po' tutti credo debbano stare per le spese generali. Vedo che anche Modena annuisce. Sì, fra l'altro devo dire, il Sole 24 Ore da anni, no, sta portando avanti un discorso di benchmark, cioè di riferimento, nel quale si dice che il 70% delle donazioni hanno una destinazione istituzionale, cioè per i progetti di aiuto, e circa un 10% sono i costi di strutture e circa un 20% sono i costi per la comunicazione, per fare l'agenzia delle Onlus ha ripreso recentemente questi stessi dati, riproponendoli con una sottolineatura in più: laddove l'associazione non destini almeno il 70% delle sue risorse all'attività istituzionale deve darne ragione del perché ne ha destinate meno del 70%, e questo mi sembra un aspetto molto importante anche di trasparenza nei riguardi delle associazioni, che debbano giustificare il perché di certi costi. Io però volevo sottolineare un aspetto che prima la dottoressa Maccaferri ha sottolineato, e cioè quello del volontariato. Come facciamo a capire se i soldi che abbiamo dato per un certo progetto... Sì, tra l'altro, scusi, lo interrompo, stanno arrivando un po' di sms anche di persone che si lamentano dicendo: io sono stato contattato al telefono, mi hanno chiesto dei soldi, però poi non ho capito dove sono andati a finire. Cioè, proviamo anche a allora, io credo capire che... dare delle indicazioni anche a una persona che risponde a una telefonata. Chi risponde ad una telefonata, a mio avviso, non dovrebbe, chiunque sia l'associazione, dare dei soldi. Ci sono persone, posso citare un caso, io ho avuto una persona che mi ha chiamato e che mi diceva: io faccio già 19 donazioni da 20 euro, la vostra associazione vorrei fare una donazione di 20 euro. Allora, questo per dire come questa persona ha messo a posto la sua coscienza dando 20 euro a tutte le associazioni che conosceva. Io dico che probabilmente se questa persona, invece che 20 per 20 che fa 400 euro, dava 200 euro a due associazioni da lui selezionati, avrebbe avuto un impatto e un'efficacia molto maggiore. Quindi credo che il donatore sicuramente non deve dare nulla al telefono, ma deve informarsi, telefonando all'associazione per chiedere quali progetti vengono fatti, chiedendo documentazione all'associazione, andando sul sito internet e magari leggendo anche il bilancio sociale, nel quale si vede quali attività fa questa associazione. Se uno segue un po' alcuni di questi passi, magari scarta alcune associazioni che oggi sta sostenendo e ne sostegna solo alcuni. Per esempio, le associazioni che hanno ricevuto una donazione da questa persona e che durante l'anno non si sono fatte più vive a nessun titolo, a mio avviso sono associazioni da scartare al giro di boa, certo, dell'anno successivo. In effetti il rischio è quello poi di donare, di fare micro donazioni, quello di, come dire, di dare dei finanziamenti a pioggia che poi hanno una minore efficacia. Un altro aspetto mi sembrava interessante è quello del informarsi passo dopo passo, e il problema è questo però, che a volte nei banchetti per la strada uno non ha il tempo materiale per capire l'associazione esattamente cosa fanno. Magari ci vengono incontro questi ragazzi con un tesserino e uno vede il tesserino, si fida senza neanche ben capire. Insomma, i banchetti per strada non ci espongono al rischio di possibili truffe o di aggiramenti. Maria Guidotti, è così? Sì, il banchetto è una delle modalità esposte. Sì. Esposte in che senso? Esposte alla truffa, diciamo, esposte alla possibilità della truffa. Quindi lì sì, bisogna... perché poi a volte sono anche violenti, nel senso, cioè, sì, è un po' aggressiva. Chiedono la mail, tra l'altro, cioè, sì. Lì non ho capito perché la mail. Lì ci si può rifiutare perché lì si produce una mailing list in questo modo a cui ci si può rivolgere per altre volte, in altre occasioni, eccetera. Però lì bisognerebbe almeno conoscere prima l'associazione, perché poi in genere queste campagne sono pubblicizzate prima, quindi le informazioni si possono avere prima, farsi dare almeno una ricevuta e il nome del referente del progetto, almeno questo. Se non ci sono queste condizioni minime, diciamo, diventa un po'... E quali sono le... Una domanda sola, ma la ricevuta che danno? Cioè cioè una ricevuta uno la deve avere? Cioè io devo avere un pezzo di carta che mi dice: io ho donato certi soldi? Cioè sono obbligato o è una facoltà dell'ente che riceve i miei soldi? In questo caso della raccolta non c'è un obbligo, però è una buona prassi che ci sia, è una buona prassi che venga richiesta, voglio dire, perché comunque anche quella ricevuta non garantisce, perché è un bollettario di per sé da solo, è un bollettario che si può comprare in qualsiasi ufficio, uno ci infatti, mette un timbro, eccetera. Infatti. Quindi, però, già il fatto di chiederlo e di avere il nome della persona referente del progetto è già un minimo. Cioè, quindi, diciamo non c'è neanche da dire di guardare bene che cosa è scritto sopra, perché quelli sono dei blocchettini, sì, che vengono venduti normalmente. Sì. Quali sono le truffe più comuni? Beh, le truffe più comuni normalmente sono con le telefonate, con il porta a porta. Un altro sistema molto pericoloso per questo sono quei contenitori che in genere si mettono negli aeroporti, perché se voi o i cittadini fanno un po' di attenzione vedranno che molto spesso non c'è scritto niente, non c'è scritto né il riferimento né un numero di telefono, magari c'è un santino, c'è qualcosa, né un riferimento di persona, niente, per cui io metto dei soldi dentro ma non ho nessuna possibilità di controllare di quei soldi di che cosa si fa. Nova Lab 24. Bentrovati, Luca Tremolare al microfono. Ci stiamo occupando di donazioni, di economia del dono. Stiamo cercando di guardare dentro le associazioni cosa accade, anche cercare di sospetti, insomma, di capirci qualche cosa di più, no, Alessia? Sì, stiamo cercando di distinguere in un mondo complicato le cose buone, le cose buone, le cose cattive, moltissimi gli sms. Tra l'altro, ricordo che ci stanno segnalando casi poco chiari, che se scrivete a Nova Lab 24 @radio24.it proviamo a rispondere, insomma. Alessia Marcaferri, certo, si impegna oggi in diretta a fornire qualche risposta. Una tra le domande, insomma, ci si chiede: nel caso di adozioni a distanza, ho sentito parlare di 80% di quello che viene donato che va, insomma, alle strutture e non al bambino. Sì, questo è ciò che la nostra fondazione dichiara, è che noi destiniamo... Ricordiamo, stiamo parlando con l'ingegnere Goffredo Modena della Fondazione Aiutare i Bambini. Prego. Noi destiniamo almeno l'80% delle risorse che riceviamo in adozione a distanza al progetto dove ci sono i bambini adottati o di cui si fa il sostegno a distanza, come si dice oggi. Quindi non ai volontari? Cioè no, direttamente al progetto dove ci sono i bambini, dove queste risorse vengono impiegate per mandare i bambini a scuola, dare loro cibo, dare loro accoglienza, medicinali, quindi per tutta la vita di questi bambini, per sostenerli nel loro cammino di vita da tutti i punti di vista. In pratica noi abbiamo risparmiato nei costi di gestione e abbiamo destinato l'88% delle risorse ricevute ai bambini. Ah beh, non male. Non male. Quindi ne abbiamo trattenute 12 per tutta l'attività del rapporto con i donatori. Noi informiamo i donatori due volte all'anno qual è la situazione dei bambini, e per fare questo occorre fare un lavoro di comunicazione, di foto dei bambini, di scheda dei bambini, di lettera inviato ai sostenitori dell'adozione a distanza per capire come sta andando l'adozione a distanza in quel paese. E pubblicate tutto via internet anche? Molto via internet, diciamo. A volte i sostenitori dell'adozione a distanza sono persone magari che non hanno familiarità con internet, allora in questo caso dobbiamo scrivere una lettera. Ecco, io volevo chiedere al presidente dell'Istituto Italiano della Donazione anche come mai non esiste, cioè abbiamo visto prima che, insomma, un donatore deve scrivere, deve informarsi, deve chiamare quando non ha chiaro non solo dove andranno i propri soldi, ma insomma chi c'è dietro l'associazione. Ma non esiste qualche progetto per cercare di avere un bollino, di avere una garanzia, magari anche attraverso il sito internet, non lo so, un benchmark di riferimento capace, insomma, di garantire un po'? L'Istituto Italiano della Donazione nasce per questo. Naturalmente non può imporre alle associazioni, perché è un istituto privato, e quindi le associazioni devono chiedere di aderire ed avere questo benchmark. Noi con una procedura molto rigorosa ci accertiamo appunto di come vengono impiegate queste risorse, di quante vengono finalizzate al progetto, di qual è la modalità, la procedura decisionale, democratica, quindi trasparente, con cui si assumono le scelte, con cui si fanno le scelte. Alla fine di questo percorso si dà appunto questo bollino che certifica, almeno per quel che ci riguarda, che quelle associazioni sono buone associazioni. Naturalmente non sono le sole, perché non tutte chiedono di aderire all'istituto, però noi su quelle possiamo garantire. Anche l'Agenzia delle Onlus, che ha fatto le linee guida, muove in questa direzione. Naturalmente non le può imporre, però ha indicato a chi vuole quali sono le modalità con cui ci si deve muovere. Anche perché Luca, ormai buona parte del, per esempio, del welfare, dello stato sociale, ma non solo, anche altri settori sono ampiamente sostenuti dalle associazioni non profit e dalle onlus. Quindi è sempre più importante distinguere tra la maggior parte delle associazioni che sono efficienti ed efficaci da quelle che non lo sono, perché, come dire, ormai sono una parte fondamentale poi della nostra economia, nel momento in cui lo Stato ha sempre più difficoltà. Non ci sono liste nere, non so, io la faccio un po' semplice forse, no, non si può fare. Non si può fare per una questione di privacy, soprattutto se fatto da istituti privati, questo se fatto su base volontaria, eccetera. Si tratta di creare, come dicevo, una cultura nuova, come diceva l'ingegner Modena prima, cioè se ciascuna associazione fa questo, si crea questo nuovo modo. Ecco, però bisogna dire che c'è una ricerca Eurisco che dice che ancora oggi su 10 euro 8 vengono donati senza accertarsi bene su quali sono le finalità, eccetera. Vuol dire che si sceglie e si preferisce una cultura della delega, cioè io metto a posto la mia coscienza facendo questa donazione, poi l'ho fatta, non è responsabilità mia. Invece, quando si dice si fa un investimento, lo voglio seguire, si dice è mia responsabilità anche che lo sviluppo di questo mondo, di questa associazione, di questo progetto dipende anche da me, certo. Non dipende soltanto, quindi, che è un impegno comune quello di far procedere positivamente lo sviluppo di questo mondo e la collaborazione tra questo mondo, il settore profit e il settore pubblico, eccetera. Non so, io avevo un po' di speranze che internet in qualche modo riuscisse a dare trasparenza a determinati processi, però del resto non si può obbligare neanche nessuno. E io vorrei girare pagina, ma solo fino a un certo punto, e per tornare, anzi andare, sul tema del marketing online, delle donazioni online. Abbiamo in collegamento Valerio Melandri. Buonasera, direttore del Master in Fundraising all'Università di Bologna. Abbiamo anche per lei una scheda introduttiva. La raccolta fondi è un mestiere serio che combina etica e competenza. Così lo insegna Valerio Melandri a Forlì. Nato nella città romagnola nel 1966, ha studiato prima economia a Bologna, poi ha frequentato un master in non-profit management a New York. Oggi guida il master in fundraising della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna ed è presidente del Philanthropy Centro Studi, spin-off accademico, specializzata nella formazione, ricerca e consulenza nell'ambito della gestione delle aziende non-profit. Ecco Melandri, l'altra faccia, diciamo, della medaglia, insomma l'altra faccia della luna più nascosta forse, o anche più in chiaro, è quella di internet. Ecco, in questo mondo che cosa accade? Com'è che vengono raccolti i denari? Se vengono raccolti? Vengono raccolti una minima parte, quindi diciamolo subito, sfatiamo un mito: la percentuale di raccolta fondi attraverso internet è molto molto molto bassa ancora in tutto il mondo, soprattutto in Italia, stiamo parlando di percentuali residuali, cioè intorno all'1-2% dell'intero raccolto che c'è oggi in Italia. Ecco. Però internet, come mai questo? Nel senso che di fatto sembra anche un metodo più veloce da un certo punto di vista, almeno una carta di credito, insomma, prima parlavamo di lavarsi un po' la coscienza, o quantomeno di agire in maniera rapida, sembrerebbe uno strumento perfetto da questo punto di vista. È assolutamente perfetto. Tant'è vero che l'unico dato che ci viene in mente rispetto alla crescita della raccolta fondi di internet è nel caso delle emergenze. Lei ha noi sappiamo ad esempio che l'11 settembre, il caso dell'11 settembre delle due torri, il totale del raccolto attraverso internet di quello che in totale è stato donato per le due torri è stato intorno all'11%, quindi tutte le donazioni soltanto l'11%, su Katrina il 25%, sullo tsunami quasi il 50%. Vabbè. Ecco, ma internet in velocità cresce, ma non cresce nella solidità dei rapporti, perché donare non è una questione di cacciare fuori denaro, ma di creare fiducia. E internet quindi ancora è un mezzo, come dire, immaturo, un po' come la telefonata, o come l'impressione che sia uno strumento troppo virtuale, insomma, è questo il punto? Internet è sicuramente uno strumento immaturo, anche perché evidentemente I grandi donatori di oggi sono sostanzialmente la generazione dei boomers, cioè la mia generazione 1949-1966 e precedenti, cioè persone che non sono nate con internet e quindi non sono abituate naturalmente a usare internet per i loro affari, per i loro bisogni personali. La generazione X, la generazione Y, la generazione Net, cioè quelle che vengono dopo, sono nate con internet e iniziano a pensare in termini di donazioni attraverso internet, ma non sono ancora nella disponibilità economica di donare. Ma io però, tra l'altro, cioè, visto che parliamo di nativi digitali dal 77 in poi, però io vedo con fatica qualcuno, non so, compilare un assegno, fare un'operazione di questo tipo, delle giovani leve, diciamo. Infatti loro non donano. Ma cioè, non per una questione di poca disponibilità economica, o anche per una questione di disponibilità economica, ma anche di strumento che forse non è adeguato. Assolutamente, infatti, no, ma ha ragione, concordo al 100%, nel senso che la stragrande maggioranza delle donazioni viene da un gruppo di persone che sotto il profilo dell'età è superiore ai 50, 55, 60 anni. Questo genera il fatto che questo gruppo di persone, che ancora rappresenta la maggior parte delle donazioni, delle persone fisiche si intende, è ancora poco incline a usare lo strumento internet. Bisogna avere internet, e concordo con lei al 100%, perché le nuove generazioni non useranno il conto corrente postale, non useranno gli assegni bancari, ma useranno quello strumento. Quindi bisogna generare delle situazioni di fiducia all'interno di quel gruppo di persone. Certo, professore, parliamo di comunicazione e marketing. Si diceva prima, lo dicevano molto bene i nostri ospiti, le associazioni hanno bisogno di comunicare, di farsi conoscere, per questo investono delle somme sempre più rilevanti, perché tra virgolette devono affermare un marchio. Lo fanno investendo su internet, per esempio con i siti, come ricordava prima l'Ingegner Modena. Come può una onlus rendersi, mostrarsi e comunicare a un pubblico che è confuso e farlo in maniera chiara ed efficace? Ecco, Melandri, a 30 secondi, poi sviluppiamo meglio la risposta. Ma attraverso internet o in generale? No, in generale. No, ma io dico sempre nei miei corsi o comunque ai miei allievi che il marketing del fundraising in sé, cioè il tirare su al massimo il brand, il marchio e così via, molte volte è tempo perso. Il vero problema fondamentale è che nel fundraising quello che conta è arrivare ad una richiesta, non è arrivare ad un marchio. L'importanza del marchio, come nel mondo profit, nel mondo non profit non c'è. Il vero problema è trovare le persone giuste a cui chiedere la cifra giusta nel momento giusto. Nova Lab 24. Eccoci tornati in trasmissione, Luca Tremolade. Stiamo un po' passando in rassegna quelle che sono anche le pratiche del dono, Alessia. Sì, esattamente. Dicevamo col professor Melandri, parlavamo del marketing nel non profit, e lui diceva che bisogna sostanzialmente arrivare a colpire un target. È questo, professore? Assolutamente. Ad esempio, noi sappiamo che nel fundraising la pubblicità, i media, la pubblicità televisiva, radiofonica, o comunque dei media in generale, carta stampata, è una delle tecniche meno efficaci. Una delle più efficaci, o comunque che ottiene maggiormente risultato, è il faccia a faccia, il dialogo personale, la telefonata personale, eventualmente una lettera personale. Come vede, ci stiamo spostando rispetto al mondo profit da un problema di far conoscere il marchio a un problema di conoscere meglio il donatore. Cioè, il mondo non profit crescerà sempre di più se capirà che deve conoscere meglio il donatore, non farsi conoscere meglio. Sì, quindi sostanzialmente deve continuare a scendere nelle piazze e a farsi conoscere, a presentarsi faccia a faccia, insomma. Non solo, questo sicuramente è un fattore importante, tra l'altro è un fattore che abbassa l'età delle persone che donano, perché è chiaro che nelle piazze si incontra e si riesce a richiedere di più donazioni a persone giovani. Tra l'altro, professore, sto guardando gli sms che stanno arrivando. Uno dei temi, insomma, più richiesti sono questi esperimenti di co-marketing del tipo il supermercato che abbina alla tessera la possibilità di donare dei soldi per l'Africa piuttosto che per altre associazioni. Questo tipo di iniziative come funzionano e come si fa a guardarci dentro? Ma sostanzialmente cosa succede? Che un supermercato, per posizionarsi in un modo adeguato, sto facendo un esempio col supermercato, per posizionarsi rispetto alla propria clientela in un modo etico, cioè per dire alla clientela non solo noi facciamo dei buoni prodotti, ma siamo anche buoni noi che li stiamo vendendo. Ed è un plus aggiuntivo che interessa molte azioni commerciali. Per fare questo il supermercato dice: perché non ci colleghiamo con un ente non profit, con qualcuno che si certo. occupa. Cioè, Maria Guidotti dell'Istituto Italiano della Donazione voleva intervenire. Sì, un attimo interloquire con Valerio Melandri. Ciao, buongiorno. Salve. Salve. Dire che su queste due cose, brevissimamente, è giusto conoscere il donatore, non farsi conoscere, ma io credo che tra le due cose ci debba essere un nesso, cioè io devo conoscere il donatore, ma il donatore mi deve conoscere rispetto alle mie pratiche, a quello che effettivamente faccio, all'efficacia della mia attività. Io credo che questo sia un punto estremamente importante, e il co-marketing anche lì bisogna avere delle regole più trasparenti, perché spesso si viene usati in maniera strumentale come fatto pubblicitario proprio per il marketing del profit, non del non profit. Rischiamo strumentalizzazioni. Certo. Perché evidentemente diventa poi un capitale di reputazione, se vogliamo, da parte delle aziende, di associare il proprio marchio a quella, a quello di una onlus. Sì, un modo per vendersi, cioè vendersi con l'etica. No? E l'importante è farlo a carte scoperte, nel senso certo. che almeno sia chiaro qual è l'intento. Ingegner Modena, voi quali strumenti privilegiate per farvi conoscere? Noi utilizziamo il nostro notiziario, chiamiamo così, che è un piccolo giornalino che inviamo ai nostri donatori una volta ogni trimestre. Facciamo alcune lettere su campagne specifiche e poi, laddove possibile, cioè laddove televisioni e radio ci accolgono gratuitamente, perché non possiamo, non abbiamo risorse da spendere in pubblicità, diciamo comunichiamo le nostre campagne sui media in maniera tale che chi ci incontra abbia già visto il marchio. Cioè io sono d'accordo con Melandri che non è importante il marchio, ma diciamo è importante che la gente ci conosca. Allora, noi ricordiamo che gli indirizzi, insomma, degli ospiti internet, il modo per contattarli, li abbiamo scritti sul Twitter di NovaLab24, e ricordo anche, insomma, visto che sono arrivati un po' di sms, un po' tanti, se avete domande, se avete insomma problemi, capire un attimino dove mettere i soldi eccetera eccetera, scrivete a novalab24@radio24.it e Alessia Maccaferri, in maniera volontaristica, insomma, vi risponderà. Ci metterò il mio tempo. L'appuntamento è per lunedì alle 4. Io ringrazio i nostri ospiti. Grazie a lunedì. A grazie. Grazie a voi. Nova Lab 24.